versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori della Radio 24, bentornati per chi ci ascolta in diretta, sono le 16.36, 27 secondi qui dagli studi Radio 24 di Milano, la versione di Oscar, grazie a chi ci scarica in podcast, scrivete per proporre puntate, ospiti e temi alla versione di Oscar, @radio24.it. Oggi puntata di servizio, per così dire, perché troverete domani i giornali, come state ascoltando i giornali radio o stasera vedrete nei telegiornali, tornare con grande forza il tema relativo alla deflazione. Perché? Perché l'Istat ha rilasciato la stima finale degli andamenti dei prezzi quelli mensili confermano che su base annua siamo a un andamento dei prezzi con un andamento negativo, meno 0,1%, anche se sul mese precedente in realtà c'è una crescita dello più 0,3%. Allora oggi tentiamo di porci degli interrogativi su questa deflazione, perché in questi ultimi mesi è diventato un mantra, un tema che viene ripetuto come un tamburo a senso unico dai media, nel dibattito politico, pubblico e così via, e forse però è il caso di spiegarci meglio che cos'è questa deflazione italiana. Perché? Ci sono alcune domande che con l'ospite di oggi, che vi presento subito e di cui ho grande stima, tenteremo dare una risposta ad alcune domande per farvi riflettere, perché voi vi sentite ripetere incessantemente che la deflazione è una specie di castigo di Dio perché non fa altro che avvitare la crisi, perché l'andamento negativo dei prezzi significa che le imprese non sono naturalmente portate a investire e a vendere, che ovviamente i consumatori si aspettano a quel punto che i prezzi ulteriormente scendono e quindi non sono portati a comprare, e che quindi tutto si avvita accelerando e aggravando la stagnazione, anzi la recessione. Allora, alcune domande per capire la deflazione sono di questo tipo. Ecco, io le metto tre in fila e poi vi presento l'ospite e iniziamo a ragionarne con lui. Primo, bisogna capire che cos'è che determina davvero questo andamento dei prezzi, cioè nelle diverse componenti quanto pesa, per esempio, la componente dei prezzi che sono dovuti all'andamento della domanda internazionale, quindi quant'è la deflazione importata rispetto all'andamento dei prezzi del mercato interno. Voi capite bene che è importante, perché quelli del mercato interno dicono della deflazione italiana, se sono dovuti all'energia o a commodity alimentari e così via è una cosa un po' diversa. Prima domanda. Seconda domanda. Sono l'andamento dei prezzi col segno negativo determinati da un andamento analogo sul mercato interno dei beni e dei servizi oppure no? E in questo caso che cosa vuol dire? Per esempio in questi anni, anche in questi mesi di dati deflazionistici per così dire, l'andamento del prezzo dei servizi, in particolare quello dei servizi pubblici, continua ad avere un forte avvaloramento di prezzo, non un deprezzamento. E quindi, primo, tentare di capire che cos'è la deflazione. Seconda domanda, ma è vero? È causalmente vero che la deflazione porta a recessione e all'aggrava? Nella storia è stato così? Che cos'è che ci consente di credere che questa sia una legge ferrea? È andato davvero sempre così o ci sono deflazioni che hanno convissuto per periodi anche magari molto lunghi, con crescita anche robusta di paesi? E magari allora ce lo dimentichiamo perché pensiamo che sia tutto uguale al 1929. Terza domanda e ho finito. Ma è proprio vero quello che vi ripeto, no? Che per far impennare positivamente i prezzi la risposta è stampare moneta a go-go? O piuttosto conta per esempio più che la quantità di moneta, gli aggregati monetari diversi, conta la velocità di circolazione della moneta, cioè il fatto che magari le imprese, trovandosi dei costi incomprimibili, le tasse non solo, finché non smuoviamo questo, finché non smuoviamo la bassa produttività italiana e così via, con sti chiari di luna si sentono poco invogliate e questa cosa conta magari più della quantità di moneta da stampare da parte della banca centrale. Ecco, delle domande a cui tentare di rispondere però in maniera non ideologica, non ripetendo i luoghi comuni, ma chiedendo a chi di mestiere analizza i numeri. E con noi Mario Seminerio, economista, è stato portfolio manager per società di gestione italiana internazionale, oggi fa il portfolio advisor e è curatore di un blog che io vi segnalo perché dovete leggerlo, è un blog di politica economica che va contro i luoghi comuni del dibattito pubblico italiano, però sempre con un'attenzione scrupolosa ai numeri e che non confonde le inferenze con le cause, che sono un'altra cosa, e si chiama fastidio.net, il suo blog Fastidio è con il PH. Buon pomeriggio e grazie a Mario di essere con noi. Grazie a te Oscar, buon pomeriggio a tutti. Allora, iniziamo a capire, questa deflazione italiana a quali componenti diverse si deve e quindi che cosa vuol dire? Nel senso ancora più ampio, noi abbiamo una pressione ribassista sui prezzi che non riguarda solo l'Italia, ma è molto presente in tutta l'Eurozona. No? Abbiamo visto che anche la Spagna ha un tendenziale di indice dei prezzi al consumo di meno 0,5, la Grecia è da tempo in deflazione, il Portogallo anche, diciamo che è un movimento molto generalizzato. Diciamo questo, noi in questo momento abbiamo sui mercati internazionali, quindi fenomeno globale, una forte pressione ribassista sulle componenti degli alimentari e sulle componenti dell'energia. Non è un caso che nelle statistiche economiche si guardi il cosiddetto tasso di inflazione headline, cioè quello che considera tutti i beni all'interno di un ipotetico paniere, e poi il cosiddetto tasso di inflazione core, che cioè elimina le componenti volatili di alimentari ed energia. Ora, senza entrare in eccessive tecnicalità, quello che conta per vedere se ci sono autentiche pressioni inflazionistiche o deflazionistiche in un sistema economico è il tasso di inflazione core, cioè al netto delle componenti volatili di alimentari ed energia. Non è un caso che in Eurozona abbiamo l'headline che è 0,4 il tendenziale, ma il core che è 0,8, e già questo ci deve suggerire che esiste diciamo una pressione deflazionistica che deriva dall'andamento cedente dei prezzi di carburanti, energia in senso lato ed alimentari. Fatto questo cappello introduttivo, è però innegabile che esiste un problema di pressione deflazionistica in paesi e sistemi economici che sono in crisi, cioè in sistemi economici che hanno un forte sottoutilizzo del proprio potenziale produttivo. Questo che cosa vuol dire? Che essenzialmente noi apparteniamo a questa categoria e quindi esiste comunque una pressione ribassista dei prezzi. Io purtroppo, poi magari ci sarà modo di approfondire e sviluppare il concetto nelle prossime domande che mi farai, noto che a livello proprio di lanci di agenzia e di dichiarazioni che sono la parte su cui la nostra Repubblica è fondata, ci sono tutte le varie categorie coinvolte che urlano, che ogni volta che vedono scendere i prezzi a livello complessivo dipingono questo quadro di keynesiano, no? di questa umanità cenciosa che sta morendo di fame. Ieri per esempio c'è stato il dato della FAO, il Food Price Index calcolato dalla FAO come mercati agricoli mondiali, che è sceso per il quinto mese consecutivo. Immancabile, anziché prendere atto che si tratta di una tendenza globale, abbiamo avuto i soliti lanci di agenzia, di associazioni di categoria. Nel caso specifico io ho letto quello di Coldiretti, ma penso che non siano, che subito hanno detto gli italiani stanno rinunciando ad un'alimentazione sana e a quant'altro, piegati e piegati da questa crisi economica. In realtà basterebbe guardare questo indice, intanto basterebbe rendersi conto che i consumi di materie prime agricole sono relativamente inelastici al prezzo, perché non è che se il prezzo della verdura scende noi ci rimpinziamo di verdura, almeno questo mi pare che sia una verità abbastanza acquisita. E quindi si sarebbe facilmente capito che in realtà c'è una pressione deflazionistica che esiste sui mercati globali. Con questo io non sto dicendo che non esistono rischi deflazionistici in questo nostro paese, soprattutto per quanto riguarda la sostenibilità del debito PIL, che questo è il discorso che ci interessa. A questo proposito è importante tenere presente una regoletta, quindi magari qui forse anticipo una tua domanda successiva. Vai, vai. Quando si dice storicamente la deflazione è sempre stata o meno un fenomeno negativo per l'economia di un paese? No, storicamente non è sempre stata, no? Abbiamo degli esempi veramente eclatanti, in casi in cui ad esempio grosse innovazioni tecnologiche che rappresentano momenti di discontinuità nei sistemi produttivi si accompagnano ad una robusta crescita economica ma a tendenze deflazionistiche sui prezzi. Allo stesso modo in cui un altro esempio da manuale di deflazione buona è quella di un aumento della competizione in un sistema economico che determina quindi una discesa dei prezzi che è assolutamente virtuosa e va a beneficio dei consumatori, ovviamente virtuosa entro dati limiti, perché è facile in qui arrivare alla conclusione che se noi in un settore economico lavoriamo per scatenare una guerra dei prezzi, alla fine questo settore perde redditività e si inabissa. Quindi a questo punto il problema esiste lo stesso. Noi dobbiamo prendere il caso del rapporto del PIL nominale, no? Una volta che noi osserviamo che cosa fa il PIL nominale e poi andiamo ad osservare le dinamiche inflazionistiche o deflazionistiche sottostanti, possiamo capire se un paese è caratterizzato da deflazione buona o cattiva. Dove voglio arrivare? A un nome di un paese che sta in mezzo all'Europa, che sta diciamo un paese, un piccolo paese alpino orgoglioso di una molteplicità di secoli di indipendenza, autonomia, sovranità, ed è un piccolo miracolo perché è un paese plurilingue, un capolavoro di federalismo spinto, che si chiama Svizzera, Confederazione Elvetica. Se noi andiamo a vedere la variazione del PIL nominale svizzero, vediamo che è robustamente positivo. Invece la Svizzera si trova in un contesto di deflazione lieve. Quindi questo cosa vuol dire, facendo una banalissima sottrazione, che il PIL reale svizzero cresce, quindi l'economia svizzera non è colpita negativamente dalle pressioni deflazionistiche che in questo periodo storico la caratterizzano. Ben diverso è il discorso italiano. Il PIL italiano, il PIL nominale italiano non sta crescendo, è lievemente cedente o nella migliore delle ipotesi quasi stazionario, e qui arriviamo altrettanto rapidamente, quindi stiamo facendo veramente un Bignami, certo, molto spinto, vabbè, no? Ma bisogna farlo ogni tanto, ecco, non ti preoccupare. Qui arriviamo molto rapidamente al problema, no? Al casus belli del nostro paese, ed è la famosa regoletta che io da alcuni anni sto martellando ferocemente sul blog e anche sul mio libro La cura letale, che dice una cosa di questo tipo: quando il tasso di crescita del PIL nominale di un paese eccede il costo medio del debito pubblico di quel paese, allora vuol dire che il rapporto debito-PIL tende spontaneamente a ridimensionarsi. Se vale il contrario, cioè se il PIL nominale cresce meno del costo medio del debito di un paese, allora il rapporto debito-PIL tende spontaneamente ad aumentare e rischia di assumere una traiettoria esplosiva. Ed è questo il caso, il secondo caso in cui ricade l'Italia. Esatto, esatto. Allora, ti fermiamo sempre 60 secondi di informazione stradale, poi torniamo con Mario Seminerio a parlare, a tentare di capire meglio la deflazione in generale, cosa vuol dire nella storia, ma cosa vuol dire la situazione della deflazione italiana oggi. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta alle 16.50 e 40 secondi. Stiamo analizzando le diverse componenti, l'impatto e il significato. Poi arriveremo anche a tentare di capire la cura di questo meno 0,1% l'indice dei prezzi su base annuale confermato dall'Istat oggi. In sintesi, a questo meno 0,1% si arriva perché i prezzi dei beni si sono ridotti dello 0,6% in un anno. I prezzi dei servizi invece tendono a crescere nella stessa proporzione dello 0,6%. Allora dice, beh, perché allora c'è il segno meno? Perché nel paniere dell'Istat i beni hanno in questo paniere un peso maggiore dei servizi. Ci sarebbe da discutere su questo, ma comunque ecco, a questo meno 0,1 si arriva per questa ragione qua. E Mario Seminerio vi ha spiegato prima che tra i beni, quelli in cui il prezzo si è ridotto in maniera rilevante sono gli alimentari, i beni energetici, i tabacchi, cioè dei beni che sono scambiati sui mercati mondiali. Ecco, tra i servizi invece, che quelli che hanno un andamento di prezzo che continua a salire, la cosa rilevante, il fattore più macroscopicamente rilevante, è che i servizi delle comunicazioni continuano a scendere, è da anni che va così, è un effetto della concorrenza, come vi ho spiegato prima Seminario, ed è una cosa positiva questa. Invece però i prezzi dei servizi pubblici continuano a salire, molto di più complessivamente. Il dato positivo dell'ultimo mese sul mese precedente dell'andamento dei prezzi, a fronte di uno annuale negativo, cioè un dato mensile tendenziale del congiunturale per denota del più 0,3%, si deve al fatto che nell'ultimo mese i soli prezzi dei trasporti pubblici sono aumentati di più del 3% in un mese. Cioè lo Stato, i suoi servizi, come fa crescere i prezzi lo Stato? Nessun altro. Dipendesse dallo Stato, col cavolo che ci sarebbe l'inflazione. Da questo punto di vista, pensate che in 10 anni l'apprezzamento dei prezzi, l'abbonamento dei prezzi dei servizi di trasporto pubblico locale è stato superiore all'80%, e per quello che riguarda la raccolta rifiuti superiore al 48%. Questo per darvi un'idea di come le diverse componenti, poi sì, c'è un risultato generale, però bisogna anche tentare di capire che cosa vuol dire per la vita di ciascuno di noi. Seminario vi aveva appena ricordato la regoletta: a seconda del rapporto che c'è tra l'andamento del PIL nominale e gli oneri, gli interessi sul debito pubblico, ecco che il debito pubblico o scende naturalmente o tende a crescere naturalmente, e noi siamo in questa condizione. Ti ridò la parola. Sì, questo è, diciamo, l'essenza del discorso. Mi fa piacere che tu abbia evidenziato il discorso delle tariffe amministrate e più in generale dei prezzi pubblici, perché vorrei ricordare un aneddoto che mi sembra abbastanza divertente. Tempo addietro, quando si parlava ad esempio della possibilità di fare l'ennesimo ritocco IVA, ci fu un importante esponente politico con grande esperienza sindacale pregressa che riuscì anche a dire: beh, ma del resto noi vediamo che ci sono delle pressioni al ribasso sui prezzi, e per cui diciamo che anche un eventuale aumento dell'IVA non determinerebbe inflazione. Allora, questa frase ricordo che mi creò un misto di ilarità e indignazione, perché questa frase, che secondo me è un capolavoro di analfabetismo politico, omette che quando l'IVA non si scarica sugli acquirenti, vuol dire che si scarica sui produttori, i quali subiscono una compressione dei margini perché il cavallo non beve. Vabbè, ma in quel caso secondo me il sindacalista politico di cui parli proprio queste cose non le sa. Adesso può essere, ma io ho questa impressione. Vabbè, visto la sua esperienza pluridecadale della materia, vuol dire che praticamente questo dimostra perché noi abbiamo uno spread che non si limita al differenziale di rendimento tra BTP e Bund, ma è molto più esistenziale. Certo. Senti, devo ringraziare Ruggero da Brescia, che in realtà voleva intervenire ma sul tema che tu hai già toccato, da quello che mi dicono la sintesi della telefonata, cioè nel rapporto con il debito. Ma la cura alla deflazione è stampare moneta a go-go o intervenire su altri fattori, secondo te? No, ma c'è un sistema di aspettative che in questo momento, soprattutto in Eurozona e nei paesi vulnerabili dell'Eurozona, sono fortemente deteriorate. Adesso dire che la cura è stampare moneta, diciamo che è una domanda tendenziosa e soprattutto temo, è una domanda retorica e tendenziosa, servirebbe molto più tempo di quello che ci rimane, perché siamo già sulla sigla di coda, però io vorrei limitarmi a fare osservare che in questo momento, e qui sarò io perfido a mia volta, mi pare che questa cura per il Giappone non stia producendo nulla di particolarmente eclatante. Sono se non una costante perdita di potere d'acquisto per le famiglie giapponesi, e questo è qualcosa su cui occorrerà riflettere. E dovrebbero rifletterci quelli che lo invocano qui. Grazie a Mario Seminario, continuate su Radio 24, appuntamento a lunedì.